La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Ciao mamma, finalmente sono riuscita a fuggire. Passeggiavo in giardino e ho intravisto un nostro connazionale che vendeva del tè all'ingresso dell'ospedale. Mi sono avvicinata a lui, gli ho raccontato quello che mi era successo e gli ho chiesto di aiutarmi. Lui ha avuto un attimo di esitazione, poi si è guardato intorno, si è accorto che era il momento opportuno e mi ha portato a casa sua, prendendo le scorciatoie più impensabili. Là ho trovato altri eritrei che si nascondevano alle autorità libiche. Con una colletta hanno raccolto il denaro sufficiente per pagarmi l'autobus fino a Tripoli. Arrivata nella capitale sono stata accolta da altri eritrei. Mi trattano come una figlia e si stanno prodigando molto per trovarmi un lavoro. Devo raccogliere al più presto i soldi per raggiungere l'Europa. Le parole sono quelle di Lettera alla madre di una migrante in fuga dall'Etiopia a Roma. Il libro è a cura di Michele Colloca, ingegnere biomedico e ricercatore presso l'Università La Sapienza di Roma, ma sicuramente anche impegnato nel terzo mondo. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha scritto questo libro e ha scritto la storia di questa ragazza, Mussi Zerai Yosef, giusto? Sì, questo è l'altro curatore del libro, un amico che è anche il fondatore dell'associazione a Brescia, come si può leggere anche nella quarta di copertina, un'associazione che si occupa dell'assistenza ai rifugiati richiedenti asilo politico. Siamo amici da tanti anni e quindi lui ha avuto in mano queste lettere da parte di Simret, che è la protagonista di questo libro, e da lì poi è nata, ecco, l'idea di scrivere questa testimonianza insieme. Ecco. Simret chiaramente è un nome di fantasia, uno pseudonimo, per motivi di sicurezza abbiamo dovuto sceglierlo, chiaramente non è il nome della ragazza, ecco, però avendo avuto queste lettere in mano ci siamo chiesti perché non fare, ecco, entrare nel pieno del dibattito che c'è oggi sul reato di clandestinità, e questa è una, come tante altre storie, di persone che arrivano appunto da paesi dell'Africa, ma anche del Medio Oriente, dall'Afghanistan, una storia come tante altre, però una storia che non viene fuori dalle statistiche, ecco. Quando scappa con la madre per la prima volta, Simret è poco più che una bambina, scrivete voi nel quarto di copertina, sì. Destinazione Sudan. Nel 2005 un nuovo viaggio con altri migranti porta le due donne in Libia verso l'Europa, e proprio nel deserto libico la madre muore. La ragazza, lacerata dal dolore, è costretta a proseguire, ma da quel momento inizia a scrivere una serie di lettere commoventi, no? Fino alla fine del viaggio. Quanto ci mette ad arrivare dal Sudan a Roma? Beh, diciamo che nell'arco di storia inizia, diciamo che la fuga da parte di Simret e della madre inizia dal 2000, addirittura dall'Etiopia. Poi nell'arco di un anno e mezzo è durato all'incirca il viaggio, poi dalle coste libiche fino all'arrivo in Sicilia, ecco, e poi dalla Sicilia a Roma. Quindi in realtà è molto lungo, parte dal 2000, scappano dall'Etiopia verso il Sudan, poi da lì si spostano per Libia e poi da lì ancora sull'isola di Lampedusa, trasferiti in un centro di permanenza temporanea in Sicilia, e da lì riesce a fuggire da questo centro e prendere un primo treno per Roma. Adesso Simret vive a Roma, che cosa fa? La ragazza fa la cameriera in un ristorante di Roma. Noi l'abbiamo incontrata inizialmente quando abbiamo parlato, perché chiaramente abbiamo detto alla ragazza l'idea di poter scrivere il libro. Lei inizialmente, dopo che si era assicurata il fatto che non avremmo messo il suo reale nome, ci ha incoraggiato a fare una cosa del genere, ecco, perché si rende conto anche lei di quanto sia importante la sua testimonianza oggi per gli italiani, per questo paese che ha varato un DDL appunto che rende che la clandestinità un reato, ecco. Un DDL che, lo ricordiamo, è stato anche criticato, sì, anche se promulgato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, proprio in questo su questo aspetto, sul reato di clandestinità. Sì, Simret sì. È arrivata in Italia da clandestina? Sì. Sulle carrette del mare, su questi campi lager mare, in Libia, è venuta con le carrette del mare e adesso fa la cameriera, è un'immigrata regolare, vive nel nostro paese da molti anni e fa dei lavori che poi gli italiani non vogliono più fare, perché non è vero che Che con non la vogliono, crisi... Sì. Simmet rappresenta proprio una delle tante storie di questi migranti che vivono sulla propria pelle tanta violenza per poter avere un'altra chance nella vita, arrivano in Italia, sostituiscono gli italiani in molte mansioni e nonostante questo ancora non riescono, non sono accettate né come persone né nelle loro figure professionali, c'è una sorta di ipocrisia, no? Voi siete l'editore è Terre di Mezzo. La vostra associazione come si chiama? L'associazione Abescia è un'associazione di Roma che è appunto un'organizzazione per l'assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo politico. Sul sito, se vuole, le posso dare Sì, anche il ecco, è sito. Può. importante perché magari c'è qualcuno che sta in ascolto e ha bisogno di un consiglio. Diciamo che agenziaabescia.it dovrebbe comparire, sì, sulla barra delle applicazioni. Lei da quanto tempo si occupa di migranti? Quante storie come quella di Simret ha incontrato? Io ne conosco tantissime di queste storie perché poi dopo tanti anni che mi sono occupato dei rifugiati, da quando sono venuto a Roma, io ho studiato in Calabria, poi ho iniziato l'università a Roma e nel tempo libero ho fatto parte di queste associazioni appunto che si occupavano dei rifugiati. Ho conosciuto tante persone, molte sono diventate i miei amici. E lì ho scoperto che effettivamente quando conosci queste persone non c'è nessun muro, non c'è nessun pericolo, nessun tipo di pregiudizio, perché ti accorgi che sono delle persone esattamente come noi, con le stesse paure, con gli stessi sogni, con le stesse debolezze, con gli stessi limiti, gli stessi pregi, no? Che possiamo avere noi, con i nostri caratteri. Allora, l'incontro con queste persone ti aiuta appunto a capire che non ci deve essere un muro, ma semmai è solo un problema è una fonte di ricchezza l'aver conosciuto e aver condiviso con queste persone di diverse culture, di diversi paesi del mondo, aver condiviso dei momenti della nostra vita, ecco. Di momenti di diversità, allora per abbattere i muri del pregiudizio e del razzismo, perché diciamo anche, usiamo le parole giuste, no? Non troppo ipocriti, dall'Etiopia a Roma, lettere alla madre di una migrante in fuga, edizione Terre di Mezzo, Michele Colloca, ricordiamo ingegnere biomedico ricercatore presso l'Università La Sapienza. La quota rosa. Per più di metà delle donne che vivono al mondo, l'aborto è qualcosa che spesso viene imposto. Ci sono donne che non possono avere il secondo figlio, le obbligano ad abortire. Ci sono donne a cui offrono vantaggi economici in cambio dell'aborto, cioè il pane per gli altri figli in cambio dell'aborto dell'ultimo figlio. Ci sono donne la cui libertà è compressa. In Italia ci siamo divisi fra chi è per la scelta e chi è per la vita. In metà del mondo le donne lottano contro chi è, contro la scelta e contro la vita, lottano contro chi vuole loro impedire di scegliere per la vita. Noi abbiamo chiaramente delimitato l'obiettivo in modo che chi è per la 194 e chi è contro la 194 può con egual buona coscienza fare questa battaglia che è per la libertà di scelta e per la vita contemporaneamente. Cosa chiedete alle Nazioni Unite? Una condanna delle legislazioni che obbligano all'aborto, delle legislazioni che invitano all'aborto offrendo premi in denaro o sostegno economico in cambio dell'aborto. Una presa di posizione contro l'aborto delle bambine. Noi abbiamo un dislivello tra i sessi in alcune aree del mondo che tocca forse i 100 milioni di persone, perché soprattutto dove la legge non permette di avere due figli, se il primo figlio è una bambina, molto spesso la bambina viene uccisa. Chiediamo che una condanna dell'uso dell'aborto come strumento di selezione genetica e chiediamo una condanna dell'aborto come strumento di prevenzione delle nascite. Non vi stupite, lo dice anche l'articolo 1 della legge 194. Che cosa avete intenzione di fare dopo la mozione italiana? Ci sarà una mozione europea? E noi stiamo già lavorando per fare una mozione al Parlamento europeo, perché bisogna costruire una maggioranza nell'Assemblea delle Nazioni Unite, quindi bisogna cominciare col Parlamento europeo, con il Consiglio d'Europa, con gli Stati Uniti per ottenere che gli Stati Uniti non siano ostili. Barack Obama ha promesso al Papa di fare qualcosa contro l'aborto. Ecco, questa è la cosa giusta da fare. Noi andremo in America per dire a Obama: questa è la cosa giusta da fare contro l'aborto. L'avete riconosciuto, è l'onorevole Rocco Buttiglione, intervistato pochi giorni fa a Montecitorio, e è stato uno dei pochissimi uomini ospiti della Quota Rosa, ma è lui l'autore di questa mozione passata al Parlamento italiano, una moratoria all'ONU affinché l'aborto non sia usato per controllare le nascite. Ci sono stati pareri discordanti, è passata questa mozione UDC-PDL, quella del PD è stata respinta per un voto, e però nel PD ha votato sì alla mozione UDC-PDL la onorevole Paola Binetti, e noi abbiamo alla Quota Rosa l'onorevole Paola Binetti questa mattina, Beatrice Lorenzin del PDL, Elisabetta Zamparutti, PD Radicali, e poi Daniela Colombo, presidente di AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo. Onorevole Binetti, abbiamo sentito Rocco Buttiglione che ci spiegava appunto l'aborto non è una scelta in molti paesi, questo lo sappiamo, ma è un'imposizione. E lei ha votato sì, malgrado il suo partito si sia astenuto proprio perché è convinta della bontà di questa mozione. Io, avendo votato sì alla mozione che io stessa avevo scritto e sottoscritto insieme all'onorevole Buttiglione, poiché il sottosegretario Scotti ha proposto un dispositivo che era uguale sia per la mozione presentata da Buttiglione che per quella poi proposta alla mozione presentata dall'onorevole Barani della PDL, sarebbe sembrato assurdo, no, che io votassi sì a una mozione perché l'avevo sottoscritta io e no a una mozione che era assolutamente identica nel dispositivo perché l'aveva scritta l'opposizione, cioè in questo caso la maggioranza. Io cerco di muovermi, come lei sicuramente sa, per categorie diverse che sono quelle che attengono al valore intrinseco che è in gioco in quel momento. Quindi era abbastanza naturale che io volessi e dovessi sottoscrivere la stessa mozione. Non mi ha creato nessun tipo di problema, nessun tipo di imbarazzo, perché credo che davanti alla drammaticità con cui l'aborto viene imposto in popolazioni che non hanno una possibilità reale, come dire, di sottrarsi a una suggestione che in parte è interna allo stesso paese, come succede in Cina quando si stimola l'aborto delle bambine rispetto diciamo alla tutela e alla protezione che si offre ai maschietti, ma allo stesso tempo in paesi ancora più poveri quello che si fa è subordinare gli aiuti che si concedono a questi paesi al fatto che ci sia un effettivo e reale controllo di nascita ottenuto in tutti i mezzi, compreso l'aborto. Quindi insomma si va oltre quello che sono le mozioni presentate da maggioranza e opposizione. Senta, ma mi spieghi un momento, noi abbiamo votato il giorno prima tutti insieme il disegno di legge contro la violenza alle donne. Certo, non e mi questo sembra è che stato fatto nessuno scandalo. No. Mi sembra anzi che sia stato letto a livello del paese come un punto di convergenza, come un punto di conquista e anche in qualche modo come un impegno condiviso. E molte altre volte noi votiamo delle mozioni insieme, o anche addirittura in alcuni disegni di legge ci sono parti di legge che votiamo insieme. Non capisco perché quando si entra su questa specificità del tema le appartenenze devono costituire quasi un elemento di scandalo, no? No, assolutamente. Però c'è stato un piccolo rispetto al voto, appunto, come lei ricordava, sulla violenza sessuale, di cui noi siamo felicissimi essendo delle donne, ma anche tutti gli uomini di questo paese, tutti gli uomini, diciamo così, di buona volontà. Sono felicissimi di questa mozione bipartisan, di questo voto bipartisan. Era un po' strano questo fatto che per un voto non era passato il PD, insomma, su una cosa che può essere condivisibile, ma noi vogliamo proprio capire perché dall'altra parte con Elisabetta Zamparutti del PD Radicali, perché a un certo punto c'è stato questo fatto che vi siete astenuti e non avete votato a favore? È evidente che il dispositivo che chiede che alle Nazioni Unite ci sia una condanna dell'aborto come strumento di controllo demografico è un punto condivisibile, per cui noi abbiamo deciso di astenerci perché in realtà per un verso, come dire, ridondante fare un'affermazione di questo genere, tenuto conto che le Nazioni Unite hanno già da tempo adottato strumenti internazionali di cui peraltro l'Italia legge firmataria che affermano che l'aborto non deve essere utilizzato come mezzo di pianificazione familiare. Quindi non si capisce poi che cosa il governo in sede di Nazioni Unite deve andare a sostenere, visto che noi siamo già sottoscrittori di impegno internazionali in questo senso. Ma soprattutto, se si leggono le premesse di questa mozione approvata, non c'è alcun riferimento a quello che è il vero problema dell'aborto, e che è l'aborto clandestino, che ancora causa centinaia di migliaia di morte, appunto perché non c'è quella... La moratoria sull'aborto è già stata fatta ed è stata la legge per la legalizzazione dell'aborto, e che ha portato a una riduzione di quasi il 50% degli aborti clandestini rispetto al 1982. Ma dico anche che la mancanza di alcun riferimento a questo problema nelle premesse, il rifiuto da parte dell'onorevole Buttiglione a prevedere misure volte a sostenere l'informazione e la diffusione di metodi contraccettivi, che sono la via per ridurre, contenere, se non addirittura, come noi auspichiamo, abolire definitivamente l'aborto, denota un'impostazione ideologica che noi non condividiamo, anche perché io, oltre che parlamentare, sono anche esponente di Nessuno Tocchi Caino, quindi ho condotto la battaglia in ambito Nazioni Unite per la moratoria sulla pena di morte. In quella sede, in nome di un richiamo fondamentalista al diritto alla vita, in realtà c'erano già dei tentativi, a partire dalla città-stato del Vaticano, di inserire il divieto, appunto, a ogni forma di interruzione volontaria della gravidanza, che noi ritroviamo, appunto, ripeto, nelle premesse della risoluzione della mozione che è stata approvata l'altro giorno alla Camera dei Deputati. Onorevole Beatrice Lorenzin, PDL, lei come vede questi due pareri contrastanti? Sono abbastanza stupita da questo, diciamo, da come è stata presentata la giornata in aula della scorsa settimana, a cui ero tra l'altro presente. E voglio dire, perché in realtà io ho registrato con grande favore l'andamento del dibattito a Montecitorio. Noi abbiamo avuto tre mozioni presentate, e c'è stato, su richiesta anche dell'onorevole Quartiani, in aula del PD, il sottosegretario Scotti, si è arrivato a un dispositivo comune che è stato votato o a favore con un'astensione nella larga parte dell'opposizione, e viceversa. Quindi voglio dire, alla fine si è passato con un grande consenso. Il dispositivo non metteva in luce o in questione il dibattito della 194 in Italia, ma riaffermava invece un principio molto più vasto, che è un diritto alla vita, alla tutela e all'integrità della donna e del bambino in tutto il mondo. Noi abbiamo affrontato proprio in quest'ultimo mese due momenti molto importanti del dibattito parlamentare. La scorsa settimana, con l'unanimità, l'approvazione della legge sulla violenza sessuale di iniziativa parlamentare, ci tengo a dirlo perché era relatrice l'onorevole Lussana, a cui abbiamo partecipato tutte quante noi, me compresa, e poco meno di un mese fa un'importantissima mozione, anche questa condivisa con l'opposizione, contro la violenza tout court e la violenza in particolare contro le donne. Nella stessa mozione sulla violenza contro le donne si parlava del problema che c'è in Cina, in India, in Perù e in altri paesi del Sud America, dell'aborto selettivo e della costrizione agli aborti, e soprattutto dell'aborto genetico, cioè ricordiamoci che vengono uccise bambine, quindi c'è veramente un'azione ancora politica e culturale contro le donne e contro i bambini di sesso femminile in larga parte del mondo. Allora, noi, nell'ambito di una battaglia contro la violenza e la tutela della donna, questa mozione, che ha avuto un dispositivo, devo dire, laico, che poteva essere essere condiviso come è stato, sia da laici che da cattolici, se ancora vogliamo fare questo tipo di distinzione, anche se secondo me è una distinzione che fa più parte del secolo scorso che dell'attuale momento storico, politico e culturale che stiamo vivendo, e dove penso che a 30 anni dal 1978 si possa parlare in Parlamento liberamente di alcuni argomenti senza che questi possano diventare dei feticci o dei totem intoccabili. Qui non abbiamo nulla a che fare con la tutela psichica e fisica della donna o della scelta di una maternità consapevole. Qui si va a incidere su stati che attuano una forma di selezione genetica nei confronti proprio delle bambine di sesso femminile. Allora, forse l'estrema violenza che viene attuata è una barbarie che tutti quanti noi dovremmo condannare senza se e senza ma. La quota rosa. E torniamo a parlare della moratoria all'ONU per far sì che l'aborto non diventi uno strumento per controllare le nascite, passato al Parlamento italiano grazie all'onorevole Rocco Buttiglione e all'onorevole Paola Binetti. Abbiamo sentito dei pareri discordanti, Beatrice Lorenzin, PDL, ci stava dicendo appunto che non crede poi a questa classificazione tra mondo laico e mondo cattolico. No, e poi voleva fare un'altra premessa. Sì, appunto. Volevo fare anche un'altra precisazione, perché sentivo gli interventi che mi hanno preceduto. Da parte mia, ma di moltissimi deputati del PDL, non c'è niente, nessuna cosa ostativa contro una politica della contraccezione, tutt'altro, cioè il raggiungimento di una sessualità consapevole è auspicabile e anzi è un fatto che noi dobbiamo sollecitare, e così come l'utilizzo di elementi di contraccezione che poi ognuno decide in modo consapevole qual è quello più opportuno. Però voglio dire, questo non c'entrava nulla con la moratoria, perché noi dobbiamo promuovere presso le Nazioni Unite un dispositivo che sia semplice, che sia decodificabile e che permetta molto chiaramente di combattere un elemento preciso in questo caso, che è quello appunto dell'aborto selettivo, e l'aborto possiamo definirlo genetico. Io non concordo con lei, penso che invece bisognava comunque anche cercare di fare qualcosa sulla prevenzione, però lei dice guardi che qua c'è una politica attiva delle Nazioni Unite, sì, in questo proposito, a oggi già c'è, già è presente. Io non so se lei, io sono stata quest'estate al confine tra la Zimbabwe e la Botswana e le posso dire che nei villaggi africani ci sono manifesti, perché vengono fatti con le immagini, perché molte persone sono analfabete, per spiegare i metodi anticontraccezionali e soprattutto la prevenzione all'AIDS, e le dico che molti di questi manifesti sono promossi da associazioni evangeliche, quindi di ispirazione cristiana. Allora, molto spesso noi parliamo di cose che poi sul campo sono diverse. Allora io vorrei dare, se mi permette, Lorenzin, la parola a Daniela Colombo, presidente dell'AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo. Questa moratoria aiuterà le donne del terzo mondo. Parliamo anche di cose importanti, perché è vero che in Cina e in India le donne vengono quasi costrette ad abortire, e molto spesso vengono costrette ad abortire quando sono incinta, fatalità di una bambina. Qui io ritengo che questa mozione sia assolutamente inutile, non si capisce con tutti i problemi che abbiamo in Italia da discutere, perché il Parlamento perda tempo a discutere di una cosa che nelle Nazioni Unite è acquisita dal 1984, prima lo ricordava l'onorevole Zamparutti. Nel programma d'azione del Cairo, che è stato firmato dal primo governo Berlusconi in cui c'era il ministro Guidi, l'articolo che riguarda l'aborto, che è il paragrafo 8.25, dice, le prime parole sono queste: in nessun caso l'aborto dovrebbe essere promosso come metodo di family planning, quindi come metodo di contraccettivo, come metodo di controllo delle nascite. Quindi non è assolutamente vero che le Nazioni Unite si siano fatte promotrici di una politica di controllo demografico. Questo è una falsità che mette in giro il Population Research Institute, che al contrario del nome che ha, non è affatto un istituto di ricerca della popolazione, ma è, diciamo, il centro dell'integralismo cristiano e cattolico, che continuano a mandare dei fax e che cercano di promuovere queste politiche. Io ho sentito dire una cosa, che gli stati praticano la selezione preventiva. Queste purtroppo dopo sono decisioni che vengono prese da coppie, che vengono prese da individui, che vengono prese da donne che decidono di abortire se il feto è femmina, perché nei loro paesi una donna non ha nessun valore, e quindi non è certo una mozione approvata al Parlamento italiano che cambia i rapporti di genere in un paese che esistono da millenni. Voglio dire, c'è moltissimo lavoro da fare. Io devo dire che noi lavoriamo molto con le Nazioni Unite, lavoriamo con l'UNFPA, lavoriamo con l'UNIFEM, abbiamo lavorato con la FAO, con l'IFAD, con le agenzie. Io non ho mai sentito, voglio dire, si fa lavoro per arrivare a un miglioramento della condizione femminile su tutti gli aspetti, per riconoscere quali sono i diversi ruoli e i diversi bisogni di donne e uomini in una determinata società. Ma voglio dire, quindi è una mozione basata su false informazioni che alle Nazioni Unite, secondo me, non avrà nessun rilievo, troveranno alcuni paesi, perché diciamo che quasi tutti i paesi delle Nazioni Unite in qualche modo hanno una legge sull'aborto, perché ricordiamoci che l'Islam prevede l'inizio della vita alla 16ª settimana, quindi anche nei paesi islamici si prevede l'aborto per salvare la vita della donna, e in alcuni casi anche in caso di malformazione del feto. Quindi la maggior parte dei paesi che appartengono alle Nazioni Unite ha una legge sull'aborto che nella maggior sì, molti però, di loro prevedono un attimo. Voglio dire, quindi i paesi che non hanno nessuna legge sull'aborto sono la Santa Sede, il Vaticano, Malta, Cile, El Salvador e Nicaragua. Questi sono. Voglio dire, quindi cioè non confondiamo, voglio dire, le idee, ecco, non... No, però sappiamo allora, benissimo Cina, che esiste un aborto. Allora, quali sono i paesi. No? Allora, sappiamo. Diciamo che questa della scelta dell'aborto selettivo, che ha portato a far sì che in Cina ci siano 32 milioni di maschi in più, voglio dire, e soprattutto in Cina e in India. Ma questo non è lo Stato che lo impone, voglio dire, sono le famiglie che scelgono, la donna che sceglie o la coppia che sceglie. Vabbè, però in una Cina, mozione, la politica no? del figlio unico o dei due figli è in Cina, però devo dire, cioè, questo siamo tutti contrari, voglio dire, all'uso dell'aborto imposto. Siamo tutti contrari, ecco. Ma la Cina, voglio dire, ha una violazione di diritti umani costante. E di ieri un articolo della China Daily in cui si denuncia che le bambine vengono prese e vendute per l'adozione. Va bene, cioè, allora, dai funzionari governativi. Vorrei ricordare che l'Italia ha pure fatto un accordo di adozione Italia-Cina, e le adozioni sono quasi tutte femmine, voglio dire, che spesso vengono prese con violenza dalle famiglie e vendute. Quindi voglio dire, la Cina è un paese su quella che è la violazione dei diritti umani a tutto campo, su cui molte organizzazioni sono impegnate da anni. No, dottoressa Colombo, io ho capito il suo punto, però c'è l'onorevole Paola Binetti che vuole intervenire. Un attimo, sentiamo cosa ha da dire. Si stanno dicendo una serie di banalità assolute. Se fosse vero quello che ha finito di dire adesso in questo momento la dottoressa Colombo, cioè che bastasse la mozione del Cairo del 1994 per affermare, quella precedentemente dell'84 per affermare che l'aborto non è un metodo di controllo delle nascite, non ci sarebbe stato bisogno di prendere atto di dati in totale assoluta contraddizione con questo. Quindi voler ribadire un principio non mi sembra del tutto inutile, mi sembra anzi che corrisponda davvero a una presa di coscienza responsabile di cui noi ci facciamo promotori intenzionalmente, completamente convinti e desiderosi di muoverci nel rispetto della libertà delle persone, della libertà delle famiglie e della libertà dei paesi. Quindi non trovo assolutamente, lo trovo semplicemente un modo di svalutare un'iniziativa che è stata un'iniziativa positiva che ha coinvolto tutto quanto il Parlamento. Nel dispositivo che è stato approvato e per il quale le faccio presente, sul quale faccio presente ha votato una grande parte del PD e si è astenuto il resto del PD, il che per quello che riguarda le dinamiche del Parlamento, per chi le conosce si rende conto che è un dato molto interessante e anche un dato, se vuole, in controtendenza su questi temi, e che ribadisce una consapevolezza che all'interno del nostro Parlamento fa della vita un valore, un punto di riferimento forte. Questo tanto per essere chiari e tanto per essere espliciti. Non c'era nessun riferimento alla contraccezione, non perché non ci volesse essere, ma perché il problema vero è quello di volerci concentrare su di un fatto. La prevenzione comprende tutta una serie di misure, tra cui c'è anche la prevenzione attraverso la contraccezione, ma sono presenti molte altre cose. È presente l'educazione, è presente l'informazione, è presente il contrasto alla povertà, è presente il sostegno alle convinzioni, alle motivazioni che sono proprie di un paese e quindi che non possono essere lette in modo esclusivamente riduttivo, come è stato l'intervento fatto in aula. Comunque, la cosa importante è fare qualcosa, cioè io in questo concordo col fatto che non si può dire va bene, no, siccome la Cina non rispetta i diritti umani, allora non facciamo niente. Intanto fare una mozione, una moratoria è comunque è un fatto positivo e non risvegliare si le coscienze, risvegliare un evento perché è un evento positivo solo perché va in controtendenza. No, io preferirei anche addirittura metterci pure la contraccezione, però insomma, voglio dire, l'importante è fare qualcosa e dire che attenzione, 32 milioni di maschi in Cina in più non sono frutto della natura, no? Ma sono frutto della manipolazione genetica, oltretutto fatta nemmeno all'origine, ma quando poi si sa il sesso del nascituro, quindi in una col fatto che la singola persona l'ha deciso per conto suo, perché 32 milioni, voglio dire, sono un effetto massa talmente significativo che presuppone in che un paese, c'è una linea di tendenza abbastanza in forte. Un paese, diciamo, che non è conosciuto per la sua democrazia. La ringrazio, onorevole Binetti. Prego. Abbiamo sentito l'onorevole Binetti, onorevole Zamparutti, radicali, ha sentito le critiche dell'onorevole Binetti, però sempre meglio di niente fare questa moratoria, no? Semplicemente ridicolo parlare di moratoria dell'aborto come strumento di controllo demografico. Questa è una battaglia che deve essere come contestazione. Come contestazione. Ma cosa vuol dire moratoria? È qualche cosa che non ci deve essere, che va abolito e lo si può abolire soltanto pretendendo il pieno rispetto di quegli strumenti internazionali che già esistono e anche attraverso un aumento di quelle risorse per il finanziamento di programmi di pianificazione familiare che invece è calato del 30%. Allora, se vogliamo essere seri su questa questione, ci vuole rigore nella richiesta che siano rispettati. Aspetti un attimo, poi do di nuovo la linea operazioni demagogiche. Ecco, allora, lei dice è un'operazione demagogica. Ma certo. Perché? Per quale motivo? Ma perché già esistono strumenti internazionali di cui noi siamo fermatari. Però non funzionano. Ma perché non c'è un impegno serio nel renderli concreti e nell'attuarli? Allora che l'Italia in ambito Nazioni Unite si impegni su questo, nel dare esecuzione a quello che ha già sottoscritto, non nel fare operazioni di propaganda come queste che non hanno alcuna possibilità di riuscita perché sono inconsistenti in ambito Nazioni Unite. E anche il dispositivo, allora io ce l'ho sotto gli occhi e lo voglio leggere. Certo, condannare l'uso dell'aborto come strumento di controllo demografico, favorendo politiche che aiutino a rimuovere le cause economiche e sociali dell'aborto. Qui non hanno voluto mettere alcun riferimento alla contraccezione. Allora qui c'è un vizio ideologico iniziale. Allora, onorevole Zamparutti, siamo in chiusura. Allora, il vizio ideologico iniziale. Sentiamo la maggioranza, Beatrice Lorenzo. Sì, non avete il voluto... vizio ideologico è chi lo vuole vedere a tutti i costi, sempre e comunque. Se fosse logico il ragionamento della Zamparutti, noi non dovremmo fare mozioni a favore della libertà in Iran, a favore delle donne che vengono continuamente seviziate, controllate e castrate nella loro libertà in Medio Oriente o in altri paesi del Nord Africa e in altre parti del mondo. Allora la nostra iniziativa politica, anche di moral suasion, non avrebbe senso. Sappiamo tutti quanto certe battaglie siano lunghe e difficili e difficilissime da raggiungere, ma quanto non far sentire isolati chi combatte queste battaglie nei propri paesi sia altrettanto importante. Allora chiudiamo con la maggioranza, abbiamo sentito, noi ringraziamo tutte le nostre ospiti, un argomento che sicuramente suscita molta emozione, ma questo vuol dire che siamo veramente impegnate, sono impegnate le nostre deputate e le nostre senatrici a far sì che ci sia sempre maggiore rispetto dei diritti umani nel mondo. La quota rosa. E parliamo adesso di cucina, ma non solo. Parliamo di una donna, di una testimonianza, una donna che ha tre figlie, che è una cuoca, anziché una chef, se così si può dire, e che scrive libri per il pubblico estero, quindi scrive libri in inglese sulla nostra cucina, che fa anche un programma su Sky di cucina. Abbiamo oggi alla Quota Rosa Serafina Scaparra. Buongiorno Serafina. Ciao Elisabetta, eccomi. Allora Serafina, tu hai scritto un libro che si chiama Cooking with Serafina, che sì, è un libro del... con Serafina in italiano. Sì, sì, ed è un libro sulla nostra cucina, cioè ricette tradizionali. Sì, e praticamente voleva essere, lo è, e lo stanno veramente adottando in parecchi paesi, veramente in tutto il mondo, non mi voglio vantare, ma è così, perché è un libro base per gli stranieri che amano la nostra cucina, ma io l'ho pensato per le donne etiopiche in prima cosa, in prima battuta, per aiutare le domestiche, no, che lavorano presso ambasciate straniere e che si devono appunto confrontare con una cucina completamente agli antipodi, proprio la cucina etiopica è veramente proprio lontanissima dalla nostra cultura. E in questo mio libro c'è anche un capitolo sull'igiene, no? Quindi come comportarsi in cucina, come trattare gli alimenti, come usare bene il frigorifero, poi c'è tutto sulle spezie, sul galateo, quindi... Allora, tu hai parlato dell'Etiopia perché chiaramente tu hai vissuto ad Addis Abeba, no? Sei andata ad Addis Abeba con tuo marito? Nel 2002. Dopo 3 anni è uscito questo libro perché appunto... mi è stato quasi chiesto proprio da loro, insomma, ecco, quindi è venuto spontaneo, no? Quasi naturale, appunto, ecco. E quindi tu hai scritto questo libro per le donne etiopi, però è stato adottato anche negli Stati Uniti, in Nord America, sì, dappertutto. Sì, sì. Perché ho scritto in inglese e in amarico, quindi per le donne etiopiche che non leggono l'inglese va benissimo, insomma, però ripeto, lo stanno utilizzando anche in Cina, in Germania, un po' dappertutto. Ecco, una cosa adesso, invece ora sì. Tu stai facendo... the reverse, si direbbe in inglese, visto? Cioè il contrario, stai scrivendo un libro sempre in inglese, però no, sulla cucina etiope, perché fra un po' sta per uscire un altro libro. No, scusami, no, io a me sarebbe tanto piaciuto questo libro scriverlo e poi l'ho pensato in 3 lingue, italiano, inglese e amarico, ma giustamente il mio editore mi ha detto che sarebbe stato veramente una cosa, un'impresa difficilissima, già con 2 lingue veramente abbiamo sofferto, allora ho cercato un editore italiano che mi potesse pubblicare il libro in lingua italiana. L'ho trovato e la casa editrice Felici, devo dire, di Pisa, e a ottobre dovrebbe uscire la versione italiana di Cooking with Serafina, ma con un'aggiunta di 30 ricette etiopiche con relative foto. Allora, la tua vita è un po' particolare, tu sei andata ad Addis Abeba, hai vissuto lì, poi a un certo punto con tuo marito, che è un dirigente scolastico, poi hai deciso di rientrare in Italia, perché tu hai 3 figlie, non una. Adesso poi fai appunto la cuoca, anche su Sky, eccetera, scrivi libri, gestisci un bed and breakfast a 2 passi da Roma, comunque in campagna. L'ho ristrutturato tutto, quando sono in un anno, ci ho messo un anno per ristrutturarlo tutto quanto, ma io non sono tornata per mia scelta, mi è stato imposto, ecco, perché mia figlia purtroppo ha avuto dei problemi di salute. Ecco, e qui entriamo dentro la tua storia. Allora, come una cuoca si trova di fronte a un problema di salute grave, che è il problema dell'anoressia. Come una mamma riesce poi a sconfiggere questo mostro che si manifesta nelle proprie figlie? Perché tu hai avuto 2 figlie che hanno sofferto di questa malattia. Purtroppo sì. La prima, che adesso... 24 anni, si è laureata, è bellissima, stupenda, sta bene, e quindi però lei si è ammalata all'età di 15 anni. Devo dire che l'importante è accorgersene. Ecco, io quello che dico, che consiglio alle mamme è di non far finta di nulla, no? Molte mamme non vogliono vedere il disagio o qualcosa che non va appunto nel proprio figlio. È dolorosissimo, però bisogna immediatamente qualsiasi cambiamento, e io l'ho notato subito che cominciava a esserci qualcosa che non andava in mia figlia, l'ho fatta vedere alla pediatra, anche lei ha confermato la cosa, poi da lì siamo andati a un centro specializzato a San Giovanni e da lì ci hanno mandato a Bambin Gesù e siamo stati fino a 4 mesi fa, ancora in terapia. Da allora adesso abbiamo concluso, grazie a Dio, insomma, ecco, anche con la piccola, l'altra figlia, abbiamo concluso. Le cose si sono insomma risolte positivamente. Però, ecco, Serafina, sì. Tu hai detto che bisogna stare attenti ad accorgersi dei cambiamenti. Sì. Prima che si cominci a non mangiare, ci sono dei preavvisi, degli allarmi? Cioè, prima sì, che si rifiuti d'umore, cambiamento d'umore, poca stima di se stessa. Si vestono in modo, si mettono cose di 3-4 misure più grandi, no? Le felpe o pantaloni, cominciano così e fanno finta di mangiare. Tu vedi appunto, soprattutto, ecco, io sono stata molto sempre attenta alla cucina, ho sempre preparato tantissime cose ai miei figli e ti posso assicurare che è stato uno shock, perché proprio, no? Una come me che adora il cibo, vivo per il cibo, lavoro con il cibo, due figlie che mi si ammalano di questa bruttissima malattia e che appunto non posso più a casa preparare nulla e non posso dire mangia, perché è un'altra cosa sbagliatissima, non bisogna assolutamente imporre di mangiare, soprattutto nella prima fase e comunque durante la malattia. Non bisogna mai dire mangia perché non mangi e così via. Senti, le tue figlie avevano dei problemi, cioè erano un po' cicciottelle oppure erano normalissime? Assolutamente no, normalissime. Normalissime. Poi cominciano a esagerare con la palestra, ci vanno tutti i giorni, diventano iperattive, anche se già frequentavano la palestra, però esagerano. No? Poi fanno il digiuno, poi hanno gli svenimenti, poi i ricoveri e così via. E la scuola ne risente? La scuola non riescono a concentrarsi. Beh, certo, la concentrazione comincia a venire meno e cominciano ad allontanarsi dagli amici, no? E allora però sono loro che si allontanano, ma pensano di essere appestati e di essere allontanati. Quindi c'è tutto un disagio proprio anche sociale, insomma, se vogliamo dire. Un'altra cosa importante, adesso in questi ultimi anni le mamme, io non auguro a nessuno, ecco, che la propria figlia si ammali, non che sia, però devo dire che adesso se ne parla tantissimo, ci sono molti centri, si può scegliere. Quando mi si è ammalata la figlia, la prima figlia, ti posso assicurare che eravamo niente, praticamente fuori dal mondo, non riuscivamo a capire di cos'è che ci aveva investito, no? Che cosa hai fatto te? Ti sei rivolta a delle strutture, diamo proprio delle indicazioni. Tu a un certo punto hai preso atto che tua figlia era malata di anoressia, sei andata ad una struttura, ad una ASL, come hai detto no, te, al Bambin Gesù. No, mi sono affidata al Bambin Gesù e devo dire... Che lo ricordiamo per chi non è di Roma, è l'ospedale pediatrico di Roma, per cui ci si può appoggiare in tutta Italia a qualsiasi ospedale certo. pediatrico. E devo dire che nella figura della dottoressa Cirillo, che era la nostra psicologa della terapia familiare, ho trovato un grandissimo aiuto. Ecco, un'altra cosa importantissima, e la prima cosa che appunto la psichiatra ci disse al primo incontro, che... comunque mia figlia sarebbe uscita fuori dall'anoressia perché aveva tutte le intenzioni di farsi aiutare. Ci sono ragazzine, ma anche donne che si ammalano di questa malattia che non hanno nessuna intenzione di essere aiutate e lì è veramente difficile. Noi ti ringraziamo Serafina, ti auguriamo tantissima fortuna per i tuoi libri e i tuoi programmi sul cibo e speriamo sempre di più che a questo punto le tue figlie, magari, che ne sai, guarite da questa bruttissima malattia, prenderanno poi un po' le tue orme, non si sa mai. Ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quota rosa @radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.